Pronto? Antò? Chi è? Chi parla? David Parenzo. Oh, ciao David, come stai? Marimortaccia, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando vuoi. Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, mi sto per te, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa visto di Tajani... Ma come sto vestito? Prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma fatta i cazzi tua, no, vaffanculo. Ma io non lo so. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. No, non ci sono. Sto a studio. C'ho poco segnale, ti scrivo su WhatsApp. Voglio vivere solo i giorni lunghi e comunicare solo coi gerundi. Voglio decidere persino i defunti. Volevo dire solamente pena di morte alla corruzione, alla mafia, alla 'ndrangheta, alla camorra, cazzo. Questo è un discorso generale, va bene. Fai la guerra con l'esercito e quando le prendi li devi fare una pera di calcinacci, le devi cavare tutti. Questo è un provvedimento, questo è un provvedimento, diciamo, estremo di fronte ai mafiosi. Voglio infliggerti pene senza senso. Soffrire per metterti in guardia da questo mondo orrendo. Da questo mondo orrendo. Da questo mondo orrendo. Andiamo a fare il mondo bello. Ho visto poliziacci del nero. Questo è un razzismo. Questo è un razzismo. Oh, questo è un razzismo. Mi permetto di dire ai ragazzi, evitate di comprare i superalcolici che fanno schifo, perché se vi vendono vodka a 50 centesimi al bicchiere, dovete sapere che quella vodka non viene da San Pietroburgo, ma viene distillata nelle reti fognarie delle nostre città. Posso parlare? Sì, parla, procedi, dimmi. Volevo sapere, io sono scoglionato di tutte ste menate che state a rompere i coglioni che non basta, esci. Ma chi? Non ho capito. Che cazzo parla il nano là? Stia zitto un attimo, per chiudere il discorso, perché non ho la cultura che c'hai tu per poter tenere a fare. Ma non ho capito, cosa ti sei stufato? Parla di cose che sai. Hanno scassato il cazzo. Ma con che cosa? Non c'è la fiscale, preoccupatevi di queste cose, invece di mettere i guardiani degli mettete i guardiani e gli scontrini, non mi scassate il coglione, risolviamo l'Italia. Tu dai per scontato che questi evadono il fisco, ma che cazzo vuoi? Sì, ma che dici lo so tu? lo so per certo perché lo vivo sulla mia pelle, vado dal barbiere, non ti fanno scontrino. E allora pretendilo. Quando lo pretendo me lo fanno. Però ma vergognati di quello che dici, rincoglionito. Ma tu sei un pezzo di merda, tu sei il capo degli evasori fiscali. Ma il capo sarai tu, il chiuso è il capo dei coglioni. Avete un po' paura, siete tutti sono un po' non vicini. Non ce n'è Covid. Voglia di cazzo, mamma mia. Via Monterosa 91, 20149, Milano, amico mio, Milano, grazie la corte Milano. E devo dire la verità, ragazzi, che sono diventato negli ultimi giorni molto molto orgoglioso di stare in questa città e di stare in questa regione, ma non per le istituzioni, di cui non me ne frega un beneamato cazzo, non per le istituzioni, non c'entra niente, perché c'è una discriminazione che sento in giro, una grande discriminazione che sento in giro, un odore, non dico di razzismo perché non c'entra niente il razzismo, un'ostilità profonda verso i lombardi, verso i lombard, verso i milanesi, i lombardi in generale, visti come degli appestati. E dico solo questo: in collegamento da Roma, città praticamente covid free dal solito bunker, ma ormai credo che levino le tende anche loro, i signori del Mossad non hanno più ragione di difendere l'avamposto parenziano. David Parenzo, buonasera. Buonasera cari amici, in una giornata triste in cui il nostro pensiero va semplicemente a Minneapolis, in cui è in corso una rivolta. Ti posso dire che le rivolte vanno represse col sangue, vanno represse anche duramente. Quindi le rivolte vanno represse duramente. Come va punito duramente quel poliziotto, le rivolte vanno represse duramente, come ha detto Trump, anche sparando. Al giornalista nero che è stato arrestato, l'inviato della CNN, ma che è stato arrestato, tenuto un'ora, poi liberato, errore senza nessuna spiegazione, probabilmente perché di colore. E allora sì, la nostra puntata Trump, deve essere Trump. Dedicata interamente al dramma di Minneapolis, con collegamenti in diretta da lì per capire, studiare e approfondire. In questa puntata non ci saranno le chiamate degli ascoltatori, non ci sarà Capezzone che dirà one, two and three, non ci sarà Capezzone, non ci sarà Meluzzi né Popi né appunto preti, come si dice, della chiesa, che cosa? Lunghe preghiere. Ci sarà approfondimento, riflessione e collegamenti con le più importanti testate del mondo per ricostruire che cosa sta avvenendo alla rivolta nera di Minneapolis. Quindi linea al radiogiornale. Grazie che a chi ci ha seguito. Buon proseguimento. Ma questo se ne vuole andare. Che è la nuova linea di Confindustria. Ho parlato con i vertici lungamente e abbiamo convenuto che è assolutamente incredibile quello che fa questa trasmissione. È veramente incredibile. Oggi ho fatto una lunghissima riunione con alcuni vertici dell'azienda. Cosa ti hanno detto? Riunione di 45 minuti di riunione. E abbiamo dato una nuova linea al programma, quindi ci saranno grosse novità. Abbiamo sentito gli stessi discorsi che sentiamo più o meno da 10 anni. Ci sono dei cambiamenti importanti che vanno fatti. Primo tra tutti, più Meluzzi, non ci saranno più sporcaccioni che telefonano pornostar, e si cercherà di entrare nel vivo del dibattito politico anche internazionale, che è troppo spesso ignorato. Questo è il tema. Questa è novità, questa è una grossa novità. Intanto ragazzi, io non ce la faccio più di sentire Brusaferro. È una bravissima persona, no? È una bravissima persona. Però amico mio, non ce la faccio. Ma state distruggendo la televisione. La state distruggendo. C'è il mondo in fiamme e voi sentite Brusaferro. La maschera sì e la maschera no. Il contagio R1 R205. Noiosissimo. Ho capito, ma perché lo mandano in TV secondo lei? Scusi, Francesco, secondo lei perché lo mandano in TV? Perché naturalmente la Rai ormai naturalmente Ivano Renzi e io sono convinto che Brusaferro sarà incandidato con Italia Viva, naturalmente. Io voglio vedere i virologi in Parlamento, naturalmente. Qualcuno andrà sicuramente in Parlamento, naturalmente. Allora Brusaferro oggi, ragazzi, è questo nome che uno, diciamoci la verità, quando parla Brusaferro uno automaticamente tocca ferro, in automatico così, oppure la mano piomba nelle parti basse. Però se Brusaferro dice la seconda ondata a ottobre è molto probabile, io dico io dico una cosa, amico mio, bisogna prepararsi. Ma perché? Estate parati. Ma perché uno deve dire una cosa di questo tipo? Io la prego, dottor Brusaferro, non avete azzeccato prima alcuna previsione su quando, come e perché arrivava sto coronavirus? E va bene. Siamo incazzati, però lo possiamo capire. Però, amico Brusaferro, perché adesso dovete metterci questo tarlo? Abbiamo evidenze scientifiche. Vabbè, sentiamo. Tradizionalmente l'autunno e da ottobre in poi è il tempo in cui comincia la stagione. È tre mesi che lo sappiamo. Le infezioni delle altre vie respiratorie si diffondono. Benissimo. Ora è chiaro che tanto più ti avvicini alla stagione dove questo tipo di infezioni si verificano, tanto più puoi andare incontro a una probabilità di maggior diffusione. Beh, mia figlia lo sapeva. Diciamo, poi andiamo avanti. Ipotesi di una seconda ondata. Ecco. Questo è importante, ragazzi. Dai, su, ma di cosa parliamo? Io veramente mi stupisco alcune volte. È una bravissima persona, anche un bravo comunicatore, signor Brusaferro. So che a lei Freccero non piace, quando sente questa voce e questo cognome le viene un attimo di ostilità per la comunicazione. Ma quale cognome? Ma se si chiama Brusaferro, mica è colpa sua. So manco il nome, cambiare. La televisione naturalmente non può tollerare quel Brusaferro. Dai, cambiare il nome. In TV si può fare tutto, naturalmente. Cambia nome in funzione dell'odio. Cacofonico diremmo noi, che abbiamo fatto naturalmente il liceo classico. Cacofonico, nome cacofonico. Brusaferro. Abbiamo in collegamento Brusaferro. Dai. Allora, dai. Oggi, ragazzi, numero uno De Luca, che dice delle parole definitive, il governatore del mondo, sugli assistenti civici, che non si faranno. Comunque è tutta una buffonata del governo. Però, siccome non ancora qualcuno, vi siete scagliati contro, perché non ne possiamo più di queste minchiate. Gli assistenti civici vanno presi. È diventato vanno presi a pedate nel culo. Vanno presi a pedate. No, io se vengono a chiedermi qualcosa, radio degli industriali si incita a pedate nel culo. Chiaro? Incredibile. A pedate nel culo. Adesso non è che devi dire che incito alla incredibile violenza. Che sia concesso questo. Offrire un altro strumento incitano per chiudere questa emissione. Vedo già il titolo di domani. Incitano alla violenza. Incitano. No, uno dei due incita alla violenza della radio di Confidus. Trovo incredibile. Scusa se faccio un po' di delazione in diretta. Chiedo scuse, però. Possiamo avere un elemento di conforto, perché nel frattempo hanno deciso che impiegheranno 60.000 assistenti volontari. Bene, il governo devo dire che ci apre comunque il cuore alla speranza, non ci ha dimenticato. E infatti ha deciso questa straordinaria operazione, direi mistica, perché 60.000 volontari, assistenti volontari, che cosa devono fare? Abbiamo posto questa domanda. Che faranno questi volontari? Possono fare la multa a chi non porta la mascherina obbligatoria? No. Possono fare una multa a chi non mantiene i tavoli, i ristoranti distanziati? No. Possono intervenire a controllare un po' la movida? No. Possono regolamentare un po' il traffico? No. E allora noi ci domandiamo che cosa devono fare questi 60.000. Ci è stato risposto che possono fare moral suasion, cioè faranno in pratica gli esercizi spirituali. Ragazzi, ma è la parola definitiva questa qua del governatore del mondo. Quanto mi carica quando fa così De Luca, quanto mi carica! Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi. Gli anni 90, che anni, che ritmo, una Vespa domenica è già, e una Vespa ci porterà fuori città. Quante cose sono cambiate dagli anni 90, ad esempio digitalizzare i processi aziendali oggi è più facile, con un software gestionale che funziona sempre e ovunque, in ufficio, in viaggio, in smart working, in cloud. Con Fluentis hai tutte le funzionalità di un ERP evoluto, completo di CRM e Business Analytics, per analizzare i tempi e ridurre i costi della tua attività. Non ci credi se non vedi? Vai su fluentis.com, scarica l'app e inizia subito la tua prova gratuita. Fluentis, la F che funziona. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ma quel finto comunista fighetto di merda che prima dice Costituzione alla mano, dico quello che voglio, e subito dopo l'Unione Sovietica e l'evoluzione dell'umanità, ma fai pace col cervello, con quella nocciola che hai nel cervello, imbecille, che in Unione Sovietica a dire una cosa del genere ti prendevano, ti accartocciavano e ti buttavano nel cesso. Idiota, vai a zappare la terra al posto che rompere i coglioni, imbecille di merda. Allora ragazzi, non ne posso più. Abbiamo passato due minuti, quasi due minuti, minuto e venti, in realtà minuto e trenta, poi compresa la pubblicità attaccata, a sentire le informazioni sul fottutissimo traffico. Meno male il che c'è la pubblicità. Alle 18:45 la pubblicità non c'entra. 18:45 il traffico con le operazioni doganali. Le operazioni doganali. Meglio quello che sentire Meluzzi. Le operazioni doganali, amico mio. Mandate più traffico, mandate più pubblicità, perché è tempo sottratto. Le operazioni doganali. È tempo sottratto a Meluzzi. Cioè, qui ancora, più traffico, più operazioni ancora, doganali. Le operazioni doganali alla frontiera, ma che cazzo me ne frega delle operazioni doganali alla frontiera? Maledizione. Cosa cazzo me ne frega? Basta con questa buffonata. Lo dico con rispetto naturalmente di chi parlava prima, che non c'entra niente, perché è semplicemente demandato Milano, ad un servizio sulla tangenziale ovest. Sì, che cosa? No, non sentite questa roba che mi dà fastidio. Che cos'è sulla tangenziale? Meglio. È normale che a quest'ora ci sia un po' di casino sulle tangenziali? O no? O non è normale? Allora, uno, diciamo, se ha problemi, subito una cosa, come dice Capezzone, no, tre cose. Uno, il traffico a quest'ora non serve perché c'è sempre. Due, come dice Capezzone, uno, no? Sì, due, è evidente che se sei in macchina e senti il traffico sei ancora più incazzato, perché dici c'è traffico e me lo dicono pure, ancora e me lo di dicono più. Pure. E quindi tre, è colpa della sinistra, e quindi vi dico cosa vergogna se c'è questo traffico, perché avete costruito le strade troppo strette. Quindi vergogna, vergogna, vergogna. Questo è Capezzone, Capezzone. Ragazzi, ancora il governatore del mondo, che dopo aver sentito un minuto e venti con i con l'operazione Tommaso Labate, che vuole Tommaso Labate, che vuole Labate, grande cronista del Corriere. Sì, ma che grande cronista, però ormai fa pure la radio Labate. Dimmi dai. Sto godendo con la cosa di Capezzone, sto godendo, dice. Vabbè, allora, basta. Vabbè, De Luca, andranno in giro col saio, ragazzi, questo è il top. La cosa qua, degli assistenti civici oggi è stata seppellita in maniera definitiva dal signor De Luca. Tanto mai si farà, perché già ci hanno ripensato. Vabbè, non la faranno non mai. Si farà mai. Le ma che c'è? Blu. Ma è come i vanno presi che a calci nel culo, ripeto, vanno presi dai. Con leggerezza, pazzo, sì. Con soavità. Con ma una, perché ti hanno sì, fatto? Sai le pedate nel sedere, quelle leggere? È gente, no, gente che prende il reddito di cittadinanza. Non mi interessa, non li voglio vedere. Non li voglio vedere. In ausilio, voglio poliziotti, carabinieri ma e quelli ti urbani. Mettono la multa, però. Non mi interessa. Sei sciocco. Questi qui, quelli ti mettono la multa, questi non te la mettono. Ti dicono, guarda che stai facendo una cosa sbagliata. Un pretoriano di boccia del governo, assunto dal governo per rompermi i coglioni, magari in mezzo alla strada. Non li voglio questi qua, chiaro? Vanno presi a calci nel culo, se mai li faranno, ma in maniera leggera, calci nel culo accompagnati a metri di distanza, così, guarda, con un movimento leggero del piede, leggerissimo del piede. Ma De Luca oggi ha messo la pietra sopra a questa vicenda qua, con delle parole meravigliose, dai. Quindi noi vedremo 60.000 persone andare in giro con il saio, con sopra scritto pentiti, è colpa tua. Nei vicoli, nei mercati, fra gli stand dei venditori, diciamo, di frutta. Saranno persone con una qualche specializzazione per fare la moral suasion. Saranno sociologi, psicologi, educatori? No. No. Hanno fatto una formazione professionale? No. Si sono formati alla scuola del niente, no. E saranno chiamati a fare il nulla. Bene, sono formati alla scuola possiamo del consolarci, niente. Il governo ha deciso di ridare vita, come evidente, dopo otto secoli, al movimento degli spirituali, gli allievi di Ubertino da Casale e Jacopone da Todi, che andranno in giro per i nostri centri storici a portare la buona novella, a fare mono Vabbè, è troppo alto, però è troppo, è stupendo, alto, è troppo alto per noi, è troppo alto da Todi, Jacopone da Todi, per quelli che chiamano alla Zanzara è troppo alto. Allora troppo, ragazzi, alto. Stiamo quasi per cantare vittoria. Queste non è i sardi, finita, no? Non possiamo i sardi, chiudere, no, no, non i speciale. Sardi, non i sardi, i le istituzioni sarde, perché i sardi non sono d'accordo con questi signori che avevano deciso di mettere la patente sanitaria, ma, una cosa impossibile, ma, una cosa, tu eri d'accordo, ma ci stanno già ripensando. Leggo da qualche parte che qualche assessore ha detto già, beh, ma è una cosa che deve decidere il governo, ci stanno già ripensando, perché un po' di schiaffoni li hanno presi, magari, no? Un po' di schiaffoni qua e là, questi signori della, io non mi interessa nemmeno di chi sono di centrodestra, ma non mi interessa di chi sono, era una puttana. è una puttanata che verrà cancellata e spazzata via. Io lo dico fin dal primo giorno, invece tu hai detto no, fanno bene, fanno benissimo. Anche Senaldi, devo dire, il direttore di Libero, ha detto beh, che male Senaldi. C'è, che male c'è se la Sardegna vuole essere più sicura. Ma come, ma che quindi, male c'è? Oddio, sì, ha detto così. Oddio, tu sei d'accordo con Senaldi? Sei d'accordo con Senaldi? Certo. E allora c'è un problema. Senti, cioè, Briatore, non puoi pretendere problema, che la gente si faccia bucare. Bellissimo, io te lo trovo geniale questa cosa qua. Non puoi pretendere che la gente si faccia bucare. Stupendo. Non puoi pretendere che la gente si faccia bucare quando arriva in Sardegna, ma non esiste nella vita. Beh, Cosimo da Taranto, fermi tutti perché c'è Cosimo da Taranto. Cosimo da Taranto, dimmi Cosimo. Buonasera, allora io volevo dire una cosa, no? Sì. Io sono alto 1,90 m e peso 110 kg. Sì, tu innanzitutto chiami da Taranto, ma non chiami da Taranto perché hai un accento. Io sono sposato a Taranto, ci vivo da 10 anni. Vabbè, allora dimmi. Comunque io sono alto 1,90 m e peso 110 kg, sì. Mi dici a me. Sì. Che cazzo mi deve dire un volontario civile se mi viene a rompere i coglioni? Beh, Cosimo, adesso dipende da quello che fai, naturalmente. Tu come vorresti rispondere a questo volontario? Ma te te lo immagini un ragazzetto di 18 anni che mi rompe il cazzo? Mica è detto che ti debba rompere i coglioni per forza un ragazzetto. Ma già sappiamo che funzionerà così, cazzo. Ma tu come reagiresti? Con violenza? Non ho capito. Ma io non so se reagire, ma dipende tutto, non da che cazzo. Questi qua come reagiscono? Cioè, come si... Perché voi si esaltano. Salvatore da Roma. Vai, Salvatore, dimmi Salvatore. Ciao, Bruciani. Senti, volevo sapere che cosa ne pensi di quell'afroamericano che è morto. Ma cosa in vuoi America, che ne pensi, appunto, amico mio? Ma cosa vuoi appunto. Che ne pensi? Appunto che. Ma cosa ti dice appunto questo episodio? Appunto, questo è un tema. Che cosa ti racconta un episodio questo episodio singolo? Di che una, cosa di uno stato? Che cosa ti racconta? Cosa ti dice? È evidente che quello mi sembra un criminale, quel poliziotto, no? Dalle informazioni che abbiamo, mi sembra una cosa allucinante. Cioè, debbe preso, processato. Stato è condannato a pene pesantissime. Non l'hai detto. Che cosa ti dice? Dopodiché, giusto, che cosa le rivolte vanno represse questa duramente. America profonda. Ma è l'America cosa profonda, dice? Tutte cazzate che leggi da che cosa dappertutto. Ti dice non di questo? Non c'entra, leggi Trump da non c'entra parte, nulla in con questa roba qua. Ma che cosa avete ti attribuito dice questa cosa a Trump che no, non c'entra? Nessuno ha attribuito a Trump niente. Che vuole, Salvatore? Dimmi che vuole. Però evidentemente ci sta un problema in America di fondo. Sì, il solito problema dei poliziotti bianchi che ogni tanto hanno degli eccessi. E pestano pure in qualche caso ammazzano e lo chiami il solito problema nere. Però dei poliziotti che vengono aggrediti, non è che non ci sono morti tra i poliziotti, non è che non ci sono, non c'entra niente con quello che beh, è successo. Certo, che però non dire? È che non li ammazzano i poliziotti per strada in America, eh? Non è che però non diciamo li ammazzano. Che il cliché del poliziotto, ragazzi, bianco che uccide un nero è purtroppo una cosa che abbiamo che già vogliamo visto. Vogliamo far aprire qui un dibattito sociologico che abbiamo tutti, già visto. Sarebbe da approfondire con collegamenti, cose, eccetera, capire. Ciao, siamo le radio italiane. Tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. Ma come ricordarlo? Ora non sono una signora. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. La Zanzara. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi. Non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona. Ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti. Ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie. Yeah! Fantasie dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda! Un dottore, chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Papi! Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Stanno sanificando il negozio, il mio centro estetico, il mio salone. Iniziano dalla pavimentazione. Ecco qui. Ho sentito ora sul podcast che non verrà in Sardegna. Come farà il discount che non ti venderà il panino da 1,50 euro per pranzo, o il kebab baro, o quello che invece ti affitterebbe il B&B a 19,90 euro a notte? Porca puttana, vaffanculo, zecca in culo. Se chiudete io faccio una pazzia, cazzo, io faccio una pazzia. A me la zanzara fa male, cioè ieri sentendo Lady Diaboliche mi è venuta in mente la voce di Lori del Santo e ho subito pensato alla Lori del Santo che schiacciava in coglione uno. E devo essere sincero, un po' la cosa mi ha intrigato. Come fate fare pure le fantasie sulle vecchie? Mamma mia, allucinante. Crux, calcola che tutte le notti che vado a letto tu sei la mia ninna nanna e sto insieme alla mia ragazza da 6 anni. Per i primi 2, 3, 4 anni ci ha provato, si alzava la mattina, si arrabbiava e mi diceva tutta la notte con questa trasmissione e quei due che urlano, ma Parenzo, quel comunista, oh, mi odiava Cruz. Adesso se non c'è la zanzara non dorme. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Ma hai letto, Davide, che hanno arrestato un mago? Non Mago Ruggero, là, come cazzo si chiama, quello... Sì, io vedo molto Telma. Negativo. No. Chi, il divino Telma? No, hanno arrestato il divino Telma. No. Mi dispiace, il mago, gli porterei le arance in calcio. Uno che si chiama Mago Candido, praticamente ai domiciliari con moglie e figlia, un tale che si chiama Renzo Martini, conosciuto come Mago Candido, accusati di truffa aggravata e associazione a delinquere. Avrebbero raggirato 450 persone, una specie. Vendevano anche, come dire, no, ingannavano anche sulla salute. Certo. Anche sulla Ed salute. È stato ospite alla Zanzara in questi 10 anni? Questo mi vuoi dire? Purtroppo no. Strano. Purtroppo strano. No. Oh, che strano. Pensa perché che per togliere... invitavo l'autorità giudiziaria ad acquisire i nastri da qui a 10 anni. Della trasmissione La Zanzara, sicuramente ci sono, vengono commessi ogni giorno dei reati. Sì, questo in è vero, in questo caso ogni no, giorno, per ogni togliere giorno, i malocchi ai clienti. A un certo punto faceva il rito della Tanzania. Che cazzo è il rito della Tanzania? Il rito? Il rito della Tanzania. Il rito D'accordo? Della Tanzania. Un'altra allora... amica tua, eh? D'accordo? Come ha fatto la tua amica? Scusa, le carte, no? Ho messo giù le carte. Questo era. Adesso era ti faccio qua? Sentire un pezzetto. No, questo qua era Mago Ruggero. No. No, per carità, quello non è stato arrestato. Però ti faccio sentire un pezzettino in cui chiama una da questo che andava sulle televisioni private, anche lui, no? Chiama una che gli chiede. Che gli chiede delle case, dice non riesco a vendere le mie case. E io dico, amico, poi senti questa roba. E perché qua. Chiama un mago e non chiama un'agenzia immobiliare? Appunto, è da chiedersi. Non è questo l'oggetto dell'arresto, dice, non è stato arrestato per questo, è stato arrestato perché rituali magici, esorcismi che servivano a togliere rituali magici. Sì, in cambio di somme di denaro. Secondo lui, insomma, guariva, le persone sarebbero guarite dalle malattie con questi rituali che faceva questo Mago Candido, una roba di una specie di Vanna Marchi, diciamo, no? Oh, perché la difendi? Sembra una specie di Vanna Marchi, il suo donascimento, il noto mago, altro, senti questo, l'altra però, brava senti, persona senti del questo, trio. Senti questo. I telefoni esplodono, bravo whisky. Bravo, bravo, sì. bravi. Cos'è sto cane? Pronto? Pronto? Vediamo chi è. Buongiorno, sono Buongiorno. Lucia da Cuneo. Lucia da Cuneo, sì. Lucia bella dica. Allora, io vorrei solo sapere, praticamente abbiamo due case in via di finizione da vendere e abbiamo un po' di difficoltà. Lei riesce a dirmi se riusciamo a avere almeno una vendita a breve tempo? Scusa, io dico una cosa però, amico mio. Adesso questo qua, naturalmente, siccome si fa pagare per la telefonata, certo, paghi e lei va avanti. Va avanti, ma tu che cazzo chiami a fare per la vendita delle case, certo, un mago? In certo, questo caso lui non c'entra un cazzo, il mago. Poi ha fatto delle porcherie, magari non lo sappiamo. E soprattutto perché oltre a fare questo poi voti i partiti sovranisti? Questa è la seconda domanda da fare. Ma che ne sai? Se che... tu che devi vendere se tu devi vendere una casa e chiami un mago, è quasi inevitabile, inevitabile, ah no, se ci fosse la domanda gliela farei. I partiti sovranisti sono dei rincoglioniti, stai dicendo che sono quasi tutti dei rincoglioniti. Non loro, pescano un grave elettorato, pesca, non loro, no, loro sono intelligentissimi, gli può dire, no, anzi Steve Bannon, no, questi qui sono dei personaggi. Gli elettori dei sovranisti, ecco, sono dei minusabels, stai dicendo, dai. Altro ragionamento. Sentiamo il mago, sentiamo Candido, sentiamo il mago Candido a questa, sentiamo, che ti chiede, io devo vendere delle case e non riesco a vendere, sentiamo. Dove sono queste case? A Cuneo. A Cuneo. A Cuneo. Queste, sì, case. Mi dica la sua data, Gioia. Data. Ma che c'entra la data con le 11, case? 11-69. Vedi la criminalità. 11-69. Questa è data. Ho capito, se abbassa il televisore mi fa anche un favore. Abbassa pure il televisore. La tratta pure. Ma lei ha due case da vendere, vuole sapere se almeno uno la vende. Ma che ne sai tu? Se riuscissi a venderle tutte e due sarebbe l'ideale, visto che sono in difficoltà. Ma vai, è un'agenzia però, scusa. Se ne vendo anche solo una mi accontento. Ma scusa, ma che cazzo chiami a fare? Va arrestata, posso dire che va arrestata questa? Va arrestata questa, non il mago Candido, che per carità truffava gli chi anziani. Chi è in difficoltà si appiglia a qualunque, no, cosa. No, ma ragazzi, Cruciani, ma questa qua chi che chiama? È in difficoltà, questa che si chiama per la vendita delle case, cosa, va arrestata, si vede un che mago era in difficoltà. E chiami il mago, chiami per chi farti è in fare difficoltà, le... va sostenuto, fammi non sentire va il mago. Ti prego, il mago sta diventando il mio idolo. Gli arresti domiciliari sta diventando il mio idolo. Cioè, riesce a convincere le persone a chiamare pure per vendere le case. Un mago! Quanto tempo è che le ha messe in vendita? Pure, che cazzo te ne frega? È un po', perché praticamente sono... c'è la struttura fatta, le stiamo finendo. Allora? Sì, secondo me sì, c'è un'agenzia? Cioè, secondo me sì, no, cosa? No, adesso non l'abbiamo ancora dato all'agenzia, perché anche quello è un costo e visto che siamo in difficoltà preferiamo di no. Il tempo passa, comunque intanto. Secondo... un cartello, via. Comunque secondo me vendete, una la vendete sicuramente. Una la vendete. Molto, molto presto. Cioè, ha messo giù le carte, una la vendete. Io sarei curioso di capire com'è finita sta storia. Guarda, ti giuro, non è accusato di questo, ripeto, però questa va presa e va interdetta, quella che ha chiamato il mago per la vendita della casa va interdetta, questo è sicuro, dai. Samuele da Cagliari, vai Samuele. Intanto l'OMS ci avverte che il virus non è sparito e ci saranno nuove ondate. Io dico, ragazzi, ma come si fa a sopportare ancora? Ma dopo questa vicenda perché non si ritirano definitivamente? Perché non chiudono giù la Claire, non tirano giù la Claire questi qua? Questi vanno defenestrati, vanno cancellati, vanno tolti i soldi a questi dell'OMS. Il virus non è sparito, ci saranno nuove ondate. Vabbè, ma che cazzo dici? Ma che roba è? Come? Ma è ma la scienza, dai, però ma quale è scienza? Meglio prevenire, ma è meglio prevenire che trovarsi erano impreparati. Quelli che la pandemia non c'è, vergognati. Ma io non ci sto a questa vergognati cosa di sparare su tutto, Samuele, in questo modo, dimmi, disfattista, Samuele, una trasmissione disfattista, distruttivista. Samuele, dimmi, dimmi. Volevo dire una roba sul passaporto sanitario. Ancora, per la Sardegna. Ancora. No, vi ha rotto i coglioni, non ve la dico? No, no, ma ancora nel senso, ancora questo passaporto sanitario è una bufala che non si farà, già stanno tornando indietro, abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Se si fa anche, non è niente di strano. Il fatto di avere un controllo certo fa sì che poi non le persone esiste che vengono sono anche più sicure. Non esiste questo controllo certo. Potrebbe essere una cosa positiva. Non esiste, non è, una cosa è un mito. Non è un mito, Samuele. Con i milanesi. Samuele, non è quello. È un mito che non esiste. La Sardegna vive di turismo. Dai, chiaro, dai, però Samuele, non esiste questa roba. La possibilità che le persone vengano e che non si ammalino. E se questo poi succede realmente. Insisti ancora. Ne non avremo, è, non ne può essere. Qualcosa di positivo. Questo mica si ferma. Mica si ferma. Non può esistere una cosa, è un mito perché quello di avere un po' perché non può esistere nessuna certezza che uno arriva anche se ha fatto il test 3 giorni prima, magari poi è asintomatico, non si riesce a percepire, cioè scusa, il test è sbagliato. Allora certo, oggi ci sono stati 600 contagi in Lombardia, andiamo ma tutti in giro. La Lombardia ne ha molti di più di contatti. Ricordiamo sempre agli ascoltatori, ricordiamo agli ascoltatori e al gentile ascoltatore che sta chiamando, che il conduttore Giuseppe Cruciani è quello che ha fatto il test a gratis. Ricordiamolo intanto. Sì, ricordiamolo. Ma, ricordiamolo. Ma, cosa ma questo alla test, fine, ma questo test non conta un cazzo. So anch'io che non conta un cazzo. Senza che tu ne avessi bisogno, lo hai fatto. La gente viene di più in Sardegna perché sa che è protetta. Hai ma capito? Protetta quindi non c'è, non cosa... esiste, è un'illusione, esiste, è una cazzata. Okay, se, le, okay. Se la sono inventata il presidente della Sardegna. Siamo stati due mesi e mezzo a casa per un cazzo. Così, ma certo, a questo punto bisogna circolare, sì. È normale, se non l'hai capito ancora, bisogna allora, circolare. No, bisogna che allora, cazzo vuoi fare? Allora. Ma cosa vuoi fare? Il contagio per il 77% è al nord, te l'hanno detto. Per i dati inquietanti di queste ore continuano a dire che il dramma è sempre in Lombardia. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Miserabili. Se più ti ascolto e più mi rendo conto che la tragedia sei te, Parenzo. Sei un coglione, un coglione. Ancora sentito Briatore, fatemi sentire Briatore che ha attaccato tutti alla, alla grandissima sugli assistenti civici. Sentiamo, sentiamo che godo, vai. Brillante. No, ma tutte robe che non hanno nessun senso, Paolo. Questi ragazzi che vogliono mettere, sì, io ti garantisco che se vanno in una movida a rompere i maroni ai ragazzi, si pigliano degli schiaffi e dei vaffanculo. Sì. Questa storia del passaporto sanitario, Flavio, come la vedi? È una gran cazzata. Prima di tutto non lo puoi fare, per cui è inutile insistere su una cosa che sai che non la puoi portare a termine. La gente la devi accogliere, il turista, con i fiori. Noi li accogliamo con i tamponi e le siringhe, ma è una roba da matti. Cioè, non si rendono conto che non, Paolo, non si può fare. Poi c'è un tizio che abbiamo già conosciuto, caro David, è un titolare di bar che ha dei problemi anche col fisco, tu l'hai già attaccato, magari stasera lo richiamiamo pure, che dice di voler fare una manifestazione a Roma domani, domani 30 maggio insieme a delle altre persone. Ma non si può fare manifestazioni, anche il centrodestra ha rinunciato a fare la manifestazione. Quindi se voi non venite a Roma e lasciate l'Italia in mano a queste teste di cazzo che ci governano, siete collusi e colpevoli del disastro economico italiano. Sì, la parola d'ordine è una sola, rivoluzione. Rivoluzione, io non ne sento di cazzate, vacci piano, non dir questo, non dir quell'altro, non offendere Salvini, non offendere la Meloni. Ma io non offendo l'elettorato, ma se non fanno un cazzo per noi, offendo chi cazzo voglio. Non hanno fatto un cazzo. L'avete capito che siamo nella merda perché non siamo tutelati da nessun partito politico? Come la salviamo l'Italia? Mandando a casa questo governo di merda, mandando a casa questo stronzo che si chiama Conte, che mi denunci. Non importa un cazzo se da ragazzo ero iscritto al Movimento Sociale o se mi piace Mussolini a me personalmente, perché reputo magari il Duce il più grande statista di tutta la storia. Poi c'è il comunista che dice io reputo Stalin il più grande, non me ne frega un cazzo, vado d'accordo anche con quello. Bisogna fare la rivoluzione ora, adesso, subito, scendere in piazza il 30 di maggio, il popolo scende in piazza, occupa Roma, Io non voglio sentire neanche fare i discorsi. Poi ci chiariremo con gli organizzatori della manifestazione. Nessun patto con le guardie, nessun patto con la Digos, nessun patto con la polizia. Avete capito? Nessun patto con l'esercito. Noi siamo venuti qua per fare la rivoluzione, non è che ci castigano in una piazza. Noi siamo venuti qua per paralizzare il centro di Roma, per paralizzare il centro di Roma. Bisogna occupare tutte le stradine parallele, orizzontali al Parlamento, gettare giù le tende e paralizzare la città fino a che non si dimettono. Questo è il progetto. Ma dove? Ne discuteremo chiaramente, non ma sono io che posso di che? Prendere decisioni, di non sono nessuno, non sono io che comando. Però io in una piazza a fare il pagliaccio non ci vado. Davide, questo qua del signor Franzoni, che dovrebbe essere un commerciato, un grande programma. Giovanni dalla provincia di Foggia, vai Giovanni, dimmi. Allora, le donne, la donna, senti, è stato preliminare, Giovanni, sono accettatissime, se li sai fare, io sono un artista. Tu sei un maestro, diciamo, dei preliminari, no Giovanni? Sì, Giuseppe, con i 63 anni, guarda, ho fatto 5-6 anni di gite europee con svariate etnie del mondo. Che hai fatto? Scusa Giovanni, tu che sei un autista, un camionista, un autista un po' fascista, diciamo, no? Ma che fascista? Che c'entra il fascismo? No, per dire, tu sei, no, per dire. Da giovani, i miei 20 anni, da 23 a 28, 29 anni, ho lavorato con facendo le gite turistiche europee con varie etnie del mondo, varie etnie del mondo, come bisogna parlare, sì, varie etnie del mondo, allora sì, va bene, va bene. E allora lasciavo un gruppo cinese, ne prendevo uno brasiliano, lasciavo quello brasiliano, ne prendevo uno argentino. E dunque, che vuol dire questa? E dunque, i preliminari, io che sono un artista, sì. Le donne le preferiscono più di quando fai, ma diciamo, chi dice l'amore. Il contrario? Scusa, non ho capito. No, quel manetto che c'hai a fianco a te si mette a figlia, si buonasera, dice benvenuto. Queste cose non bisogna parlare. Io mi sono masturbato quella sera che un ragazzo di Roma 27enne ha detto che non si depilava. E l'altra sera ti è piaciuta quella? Sì, io guarda. Ma infatti lei è un animale. Lei è senza. ma io lo sapevo animale? Già da prima. Tu sei tutto scemo. Lei è senza quale ombra animale? Di dubbio è un animale. Ma sa perché lei è una bestia? Ma sa perché lei è un animale? Non per. Sai perché. No, ma sa perché lei è un animale? Ma che ne sa lei? Lei per me è un animale perché parla di queste cose in radio. Per quello tu è un animale, è una bestia. Allora, non venire a Radio 24, devi andare a fare come in culo venire? Tu. Ma cosa scegli? Come non venire a Radio 24? Ma perché radio, stai distruggendo Radio, perché Radio 24 è questo per te. Devi andare perché a fare in culo, vai a radio dove non si parla di sesso. Perché il sesso perché è questa cosa è una radio dove si parla mondo, di sesso? Stupido. Ma tu stai distruggendo un marchio. Ma perché questa è una radio in cui tu ti rendi conto, questo signore bellissimo, sì, stupido che non sei altro. Non fare non parlare della radio, zitto, puliscici la bocca, non pronunciare la parola Radio 24 che distruggi il marchio, non pronunciarla neppure. Se non vuoi stare a Radio 24 devi andare a fare in culo. Ma capito? Io ci voglio stare come valore a parlare di queste porcherie, schifoso animale che non sei altro. Ma non ti vuole nessuno, scemo, animale, non ti vuole nessuno. Animale. Ma quale animale? Sei tu che sei ignorante. Uomo perché di Neanderthal, uomo di Neanderthal sei, cavernicolo. Ma che piatto sulla macchina e gli limoni la vulva, quella. Ma cosa è ti ma che cosa porcheria piacevole è? Sei un animale, sei una bestia, sei bestia. Vai a bestia. Sei una bestia, bestia. La cinese quando tu gli limoni la figa. Ma cosa c'entra la cinese? Sei un animale schifo. Bravo, che anima, ma cosa c'entra la cinese che sei? Bestia inumana, bestia. Aspetta Giovanni, fermo un attimo. Tu sei la vergogna di questo pianeta. Ma io tutto perché non voglio parlare di queste cose. Tu ti rendi conto? Ma che cazzo vuoi? Che io non voglio parlare con te. ma scusami un attimo, allora chiariamo la situazione. Giovanni, aspetta, fermo un attimo, Giovanni. Allora, chiariamo. Io intervengo per bloccare questo scempio. Tu il microfono te lo devi infilare nel culo del culo. Scusa, Giovanni, io voglio capire, lei per quale partito ha votato alle ultime elezioni? Io non vado più a votare. No, l'ultima volta che lei ha votato, l'ultima volta che lei sente più vicino. Non ho altre domande, non ho altre domande. Non mi rompere i coglioni. Non ho altre domande. Non ho altre domande. È una vecchia conoscenza, Giovanni, di questa... non ho altro da aggiungere. Giovanni è una vecchia conoscenza di questa emissione radiofonica. Mi sembra di capire che si è arrapato l'altro giorno col racconto della Francesca, sì, da Roma. Con quella ragazza che ha detto che uscivano i peli dallo slip di quella ragazza, sì, di Roma. Assolutamente, tutto corretto, tutto corrisponde alla cosa. E Daniela Martani, quando ti chiedeva se ti piacevano i peli sulle gambe, lì proprio cotuto altamente. E non ho capito perché ti piacciono i peli sulle gambe a te. Beh, ragazzi, anche sul braccio quando vedo la donna. Tu, mamma mia, ma è una scimmia, te l'ho detto io. Questa è una scimmia. Questa è una scimmia, questa è una scimmia. Ascolta. Tu sei una scimmia, te lo dico io, te l'avevo detto già prima. Sei una scimmia. Anzi, il coniglio è meglio di te. Non ho capito, Giovanni. Qual è il film che mi hai citato? Qual è il film che mi hai citato, Giovanni? Qual è? L'assassino sul Tevere. Sì, sì. Il pianeta delle scimmie. Quando Thomas Milley va all'obitorio a chiedere i cadaveri, c'è una donna che passeggia vicino al muro. Tu sei un primate, Tu di quel pezzettino di scena, quella è la donna ideale per me, perché a te ti piacciono i piedi, a me mi piace il polpaccio della donna. E come ti piace il polpaccio? Si sono trovati due amici, vedi quella donna che va avanti indietro? Un polpaccio grosso, non ho capito, com'è il suo polpaccio? È un po' carnoso, diciamo. Ma sei una bestia, ma sei un animale. Ha ragione Parenzo. Ma quanti chili pesi tu, Giovanni? Ma adesso non mi... 85, 87, non lo so. Ma poco allora, non sei una bestia? Pensavo che fossi più grosso, più una bestia enorme. No. Comunque tu sei sempre mussoliniano, mi sembra di capire, no? Cioè di fondo sei mussoliniano. Assolutamente sì. È sempre mussoliniano, Parenzo. Questo a concludere il quadretto, caro David. Questo signore fuori discussione. Si proclama mussoliniano, caro David. Cosa dice? Per me tutto torna. Tu come lo Parenzo, come lo consideri Giovanni dalla provincia di Foggia? Un primate. Cioè non si è evoluto, un involuto. Esatto, un primate, no, tecnicamente un primate. Ma vaffanculo, vai a fare in culo, vai a cagare, dicono a parma. Ciao Giovanni, ciao. Claudio da Roma, avanti tutta ragazzi, forza, dai. Dimmi Claudio, dimmi. Dimmi Claudio, dimmi. Ciao Lucia. Dimmi. Allora io dico, come si fa da spazio agli elementi come a degli elementi, sì, come quello tutto tatuato che non voglio dire nome. Sì, Algero, sì, Algero, sì. Mamma, no, World Star, la 1726, non so come cazzo. Di pubblicità. Io ma non faccio pubblicità. Amico mio, non c'è nessuna pubblicità. Posso dirti, la pubblicità questi la fanno, se la fanno sull'Instagram, su altre cose. Noi dipingiamo un quadro, Ho visto anche un pezzo su un quotidiano che certo non sono considerati trash, diciamo. No, hanno fatto un grande ritratto del signor Algero, credo addirittura sul Fatto Quotidiano. Per cui no, ma per carità. Ma va bene, anche va bene Claudio. Cioè, noi dipingiamo la realtà, cioè tratteggiamo quello che accade nella società. È un fenomeno che abbiamo ripreso, che abbiamo anticipato da un certo punto di vista. Per cui di che parliamo? Sì, ma va bene la notizia che insomma la cravona che sta questo che va in giro con la macchina e insulta le persone. Ma stop! Sì, è come il bullo in classe, no? Se uno gli dà spago, il bullo continua a fare il bullo. Ma non me ne frega niente, mi di quello che fa. No, ma non è più come una volta, amico mio, non è come una volta, ti posso assicurare. Ma non funziona più come una volta. Questi qua se ne fottono di essere intervistati di qui o di lì, hanno i loro mezzi, fanno quello che vogliono. No, invece lo fanno, lo vogliono. Ma sì, magari vengono alla zanzara. Sì, d'accordo, ma questi non è che sì, ma non è. Ma perché non lo fate? Ma che sei matto? Cioè, ma è una cosa fantastica, è stato un delinquente. Questi sono tutti d'accordo, ma questo non c'è dubbio, ma illegalità. di merda sono questi. Che sono? Il problema, diffusori di merda. Diffusori di merda. Ma tu lo faresti un confronto con Algero? Tu e Algero, tu e il signor ma Algero. No, assolutamente no, perché non voglio avere confronto. Ah, non ti vuoi sporcare le mani con Algero? No, perché non ti vuoi sporcare le mani? Facciamo un confronto su un argomento qualsiasi che... Non ti vuoi sporcare le mani col signor Algero? Vabbè. Ma assolutamente ciao. No. Ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, a concludere il capitolo di quel barista, gestore di bar, credo toscano, di Carrara, di Masso, di Carrara, non ricordo bene, che è piombato a Roma e vuole fare la rivoluzione. Caro David, direi di chiamarlo. So che non sei d'accordo. So che non sei d'accordo. Sì, ma è un momento grandissimo. Non capisco perché, per esempio, Capanna non faccia nulla in questo periodo. Perché non fa niente in questo? Perché resta là nel suo bunker, isolato nel suo bunker, signor Capanna? Qualcosa dovrebbe fare in questo momento di grande fermento. È un momento, il fermento vedo vero che non mi sembra esserci a Minneapolis. Minneapolis, beh, sì, certo, c'è un fermento. Ecco, bisognerebbe portare, non per la violenza naturalmente, ma i termini di quella rivolta, quindi ad esempio incendiare le strade, le piazze, le fabbriche naturalmente, portare gli strumenti di quella rivolta. Naturalmente mi ricordano degli anni, no, democratico no, ma mi ricordano degli anni in cui appunto scappavano dalla paura come conigli i padroni, scappavano. Sì, ho capito, ma lei come intende portare sta rivoluzione a Minneapolis? Scusi, non ho capito, in che modo? Non ho capito, cioè con che? Cioè, con... Bisognerebbe accendere delle fiammelle di rivolta naturalmente, cominciare nelle fabbriche. Le fabbriche hanno appena riaperto e quindi sarebbe un danno enorme naturalmente quello di oggi di bloccare improvvisamente di nuovo uno shock incredibile alla produzione. Ma non c'è motivo, perché bisognerebbe farlo? Io da ex parlamentare potrei ovviamente una volta accaduto andare lì col megafono, i volantini e partecipare, andare nelle trasmissioni per spiegare naturalmente il senso della rivolta, ma primariamente vanno bloccate le fabbriche che hanno appena riaperto, il danno al padrone sarebbe doppio, c'è stato il lockdown terribile e ora con il blocco delle fabbriche si può contrattare tutto all'assalto naturalmente di Viale dell'Astronomia, andare immediatamente all'assalto, questa potrebbe essere una ottima idea, occupare tutta Viale dell'Astronomia a Roma in zona euro, potrebbe essere questo un primo importante segnale, però fa un danno relativo perché Viale dell'Astronomia non ci sono le aziende, è la rappresentanza, se tu invece blocchi l'azienda crei, provi a immaginare un danno enorme, al sistema produttivo capitalistico, si creerebbe un danno irreparabile naturalmente in questa fase. Questi che hanno gridato Fontana assassino l'altro giorno, che abbiamo chiamato anche noi qui da questa radio, parole naturalmente negli anni 70 scappavano, si agiva direttamente una scritta su un muro, per carità, abbiamo fatto di peggio, volavano dalle aule delle università, volavano le cattedre in strada, cioè, troppo moderati questi qua, troppo moderati, sì, si limitano a fare delle scritte in giro. Dorotei direi. Brandoni, chiamiamo, vai. Nicola, sono Cruciani, come andiamo? Ciao, come stai caro? Sto bene? Beh, non c'è male, non c'è male. Non mi far attaccare da Parenzo, No, Parenzo è sempre qua, è sempre qua. Mi odia Parenzo. Ma ti odia, non è che ti odia, ascolta quello che dici e ti attacca, non è che ti odia. Vado nel merito delle follie che vengono spesso purtroppo dette, ma magari oggi speriamo non sia così. Scusa Nicola, ma sei arrivato a Roma a fare che cosa? La rivoluzione, ho sentito da qualche parte. Sì, domani. Domani presidiamo tutto Piazza Montecitorio. Ma non puoi, ma non si possono fare, non potresti nemmeno andare a Roma, tra l'altro, secondo le regole. A me me ne frego, guarda, a me di quello che dice Conte, che è un pagliaccio, me ne frego. Questo governo ha portato l'Italia alla rovina. La realtà è che a Roma gli incassi dei negozianti sono pari al 20% del volume di giro precedente. C'è stato il virus, certo. C'è stato solo il virus, c'è un governo che è incapace di trovare soluzioni politiche e economiche per il nostro paese. Hai detto che sono delle teste di cazzo. Sono delle teste di cazzo. Guarda, basta andare io solo domani, cercheremo di raggiungere l'ambasciata americana e chiedere aiuto agli Stati Uniti. Ma chi? Sono degli ma cercherete chi? Vendere. Scusa, mio amico mio, chi io cercherete? Io penso che devi cercare un ospedale in zona. E c'è, sì, c'è vicino all'ambasciata americana c'è un bel presidio medico sanitario, vedrai. Con i soldi del finanziamento dell'editoria. No, noi non viviamo, no. Sono pagati da un governo, dal potere. Amico mio, nessun governo. Ti sbagli, amico mio, ti sbagli. Pubblicità, pubblicità. Comunque la prima cosa che facciamo è abolire il finanziamento all'editoria. Ma facciamo chi? Campano. Ma chi? Lo fa? Non ti preoccupare, arriveremo un giorno, ci vuole pazienza. Ma che vai, dici che devi fare la rivoluzione domani, ma che succede? Ma non ti preoccupare, la rivoluzione, intanto facciamo un'occupazione permanente che non sappiamo quanto ma quale occupazione? Vi portano via in due secondi, a parte che se... Esatto. Va bene. No, ma voglio dire, vi portano via... Siamo. Ci confronteremo sulla piazza, sai, che le guerre si ma non c'è da confrontarsi, c'è da curarsi, non da confrontarsi. Curarsi, non confrontarsi, da curarsi. Puoi curare curarsi. Guarda, se facciamo un test di intelligenza di preparazione sicuramente ti disintegro, parente. Guarda, questo purtroppo non credo. Sì, però voglio capire una cosa, amico mio. Tu innanzitutto... Sto povero fascistello qua. Comunque, non sono evviva, fascista, almeno, appena domani mattina scendi nella cosiddetta piazza, abbiamo risolto il problema di questo signore. Poi ti svegli tutto sudato, tutto sudato dal non tuo ti sogno. Non ti preoccupare. Quale sei? C'è l'articolo 21 della Costituzione. No, io sono per farti curare, no Manettaro. Farti curare. No, ma quali manette? Le persone malate vanno curate, figurati. Le persone malate, le persone non sono comunista. Le persone non sono comunista e neppure sostengo il governo. Quando il popolo capirà la porcata che avete fatto grazie anche ai giornali al sistema. Ma la porcata qual è? Ci sono 83 medici che stanno facendo uscire la verità sul Covid. Io capisco che questi illuminati o le persone che governano il mondo e che vogliono schiacciare illuminati, l'Italia, gli illuminati sapete benissimo cosa sono, facciamo finta cioè, di non sapere. Gli illuminati governano, siamo arrivati agli illuminati dalla piazza, certo, dalla manifestazione di piazza in nome contro il governo degli illuminati. Certo, c'è una manovra mondiale a cui si sta opponendo solo Putin e Trump, ma comunque io capisco che voi non approfondite. No, è così, tranquillo. È così, l'Italia farà c'è un disegno economico sì, per la terra è piatta. C'è un disegno economico. Disegno economico mondiale. Ma disegno economico di chi? Mondiale. Di chi? Mondiale. No, disegno economico mondiale però devi dire anche. Mondiale, di mondiale. Di famiglie di mondiale. Chi sarebbero queste famiglie? Allora, ascolta, te lo dico io. Rothschild. Aspetta che te lo dico io. Te lo dico io chi sono le famiglie, aspetta. Io capisco che voi proteggete questo sistema che ci può far Te lo dico io le famiglie, no? Quali sono le famiglie Rockefeller? Aspetta. Aspetta, le famiglie. Le famiglie quali sono? Quali sono le famiglie? Aspetta che ti aiuto, le famiglie. Le famiglie Rothschild, Rockefeller, poi allora, qual è l'altra? Rothschild, Soros. Qual è l'altra? Ma me lo dite io le famiglie? Quali sono le altre? Fallo parlare. Le famiglie, quali sono le famiglie? Mi fate argomentare o no? Ma hai detto le famiglie che governano gli illuminati, allora, dimmi il nome, no? C'è un gruppo di famiglie a livello globale, mondiale, famiglie e gruppi economici. Che vogliono far fare la fine dell'Italia, la stessa fine che ha fatto fare alla Grecia. Quindi il disegno è questo. Sì, ma in tutto questo, i Rothschild, cosa c'entrano? Bill Gates, che c'entra? Bill Gates, che c'entra in tutto questo, per esempio? Bill Gates ha depositato il vaccino del Covid nel 2014 e vuol vendere i vaccini nel mondo per diffondere le malattie. Per diffondere le malattie. Ma se non c'è il vaccino, quale vaccino ha depositato nel 2014? Cosa dici? Allora, perché dentro i vaccini ci sono i recettori delle malattie. Vabbè, ma in tutto questo, sua eccellenza, in questo, sua eccellenza, è sempre sua eccellenza, Benito Mussolini, no? In tutto questo, tu no? Voi volete ridicolizzare le persone, in alcuni casi sì, indubbiamente io studiato, sono quell'ignorante che ti interessa. Sì. No, ma in tutto questo sua eccellenza rimane sempre sua eccellenza, immagino, no? Benito Mussolini è il più grande statista della storia dell'Italia. Benissimo, possiamo chiudere. E Gesù è morto dal freddo. Vabbè. E Gesù Cristo. Comunque domani questo non c'entra con la manifestazione di Roma in cui parteciperanno anche i comunisti. Ci sono anche ma comunisti. Manifestazione non ci sarà nessuno. Ma non partecipa nessuno. Ma non ci sarà nessuno. Non c'è bene, nessuna rivoluzione in atto. Non c'è nessuna rivoluzione, vabbè. Nessuna ribellione. Vabbè, non c'è niente. Ci vediamo domani in piazza. Dai. Ma quale piazza? Ora non ho tempo. Ah, vai, dai, vai, stiamo preparando. Vai, illuminato. Ciao, illuminato. Ciao. La zanzara. There's a place. place off Ocean Avenue, where I used to sit and talk with you. We were both 16 and it felt so right, sleeping all day, staying up all night, staying up all night. Beh, finalmente Cruciani si è lavato quei capelli. L'ho appena incrociato in uno dei saloni, che non posso dire altro, non posso aggiungere altro, e si è lavato i capelli, confermo ragazzi, confermo, se li lavo ogni tanto. Che vita triste, mi hai rattristato Martani, madonna mia, ma sei un incubo di donna, guarda che... Cioè col cazzo che gli uomini vengono con te, sei una rompicoglioni, madonna mia, basta. Ciao, sono Sebastiano Barisoni, Radio 24, e questa volta non sono solo. Sono Nicola da Taranto e piscio nel lavandino. I love my radio. I love my radio. Ma questo la, è la distruzione di tutto. Avete distrutto una. Avete una un responsabilità. Marchio. Abbiamo distrutto enorme. Sì. Io ti farei causa, sai. Io fossi l'azienda, ti farei causa per distruzione di un marchio. Un marchio che era garanzia di affidabilità, di notizie, serietà sì. Legate anche all'economia, ma non solo, anche a capire i flussi sì. Della storia, interpretare e capire quello che accade in Italia, nel mondo e in Europa. Sì. Tu sei riuscito nel corso degli anni, goccia dopo goccia, a distruggere un patrimonio che generazioni prima di te avevano costruito. Una radio impegnata nel solco della tradizione del grande giornale degli industriali. E tu sei riuscito, per carità, non in poco tempo, a distruggere, a spazzare via tutto questo. Una vergogna. Io mi chiedo come questo ancora ti sia permesso fare. Come mai ti è permesso fare questo? Che cazzo fai? Perché hanno interesse loro stessi a mantenere in vita un prodotto come questo, che ogni giorno mina, distrugge la credibilità di una grande testata come questa? Perché lo fate? Perché? Perché? Allora ragazzi, un settimanale olandese ha definito gli abitanti del sud Europa, tra cui gli italiani, parassiti, nullafacenti, beoni, eccetera, eccetera. La stessa cosa che diceva la Lega del Sud. Sì, sicuramente. Le proteste della Meloni, eccetera. Ragazzi, i paesi cosiddetti frugali, sì. Austria, Olanda, frugali, eccetera, eccetera. Frugali. Si chiamano così. Ma perché cosa è nota l'Olanda? Perché cosa è nota nel mondo? Perché cosa è nota per il mondo? Per il fumo questo. E per le mignotte, e per i tulipani, diciamo la verità. Il formaggio ottimo giallo. Il formaggio ottimo. Va benissimo. Ottimo, il formaggio ottime, giallo. Però non ottimo, è che devono rompere i coglioni questi olandesi. No, ottimo. Va bene. Poi le proteste comunque, del governo sono ridicole. Lo stesso linguaggio della Lega. La ma Lega di Bossi del sud. No, del nostro sud. La Lega di Bossi diceva le stesse cose che dicono i paesi ragazzi, cosiddetti del nord Europa. Hanno arrestato il poliziotto che ha ucciso, diciamo, che ha ammazzato il nero lì a Minneapolis. L'hanno arrestato poche ore fa, non è una roba di. Ti credo. Forse meno anche male. Con ritardo lo hanno arrestato. Comunque è stato arrestato, come anche un po' per placare le polemiche, gli incidenti che ci sono e tutti i casini che ci sono. Ma a questo punto direi no. Prima sentiamo uno che ce l'avevo qui. Claudio da Prato, vai, dimmi. Buonasera, ben gentile conduttore. Mi permetta di. Sottolineare un suo piccolo errore. Lei ha citato il Mago Candido. Allora, da rapide ma esaustive informazioni tratte dalle autorità competenti, sì. Il signore alias Mago Candido, nella sua pubblicità. Lei è un mago? No, perché solo io rappresento la fantasia, quindi ho simpatia per i maghi. Ha simpatia per i maghi. Lei credo che sia un mezzo mago. Comunque, dica. Dice, specifica chiaramente, lei lo può verificare. Ma quello può specificare quello che vuole, le accuse sono diverse. Che cos'è che ha specificato? No, fermo. Dimmi. Specifica chiaramente nella sua pubblicità che non si occupa di salute. Ho capito, però pare che abbia preso dei soldi per curare con delle candele una bimba dislessica. Che vuol dire? Ma ho capito, questo lo dice lui, che sei l'avvocato del Mago Candido. Questo è il dato di fatto. Ma quello è quello che dice lui, evidentemente, secondo le accuse non è così. Poi sono accuse, per carità. Lui dice nella pubblicità. Ma chi se ne frega della pubblicità del Mago Candido? Perché lui si esula dal campo del diciamo del trattare eventuali malattie. Ho capito, ma lei per caso è Mago Candido? No, non è che è Mago Candido. No, io sono il rappresentante della fantasia magica. Ho capito, però amico mio, il problema fondamentale è un altro. Le accuse sono che invece si è fatto dare dei soldi per cercare di, col malocchio, di curare persone che avevano gravi malattie. Il malocchio e il talismano è una cosa. Non sto dicendo che è colpevole, non me ne frega niente. Io non sto dicendo che è colpevole, lo hanno arrestato per queste cose qua. Precisi nelle notizie, amico. Poi, per quanto riguarda la sua simpaticissima inserto relativo a De Luca, vorrei ricordare al simpatico presidente della regione Campania che in genere Ubertino da Casale era collegato, e il nome della rosa è lì a dimostrarlo, a Fra Dolcino, e le ricordo che Fra Dolcino era famoso perché voleva, diciamo, propugnava il concetto che tramite l'atto d'amore si raggiunge Dio. Quindi praticamente direi che i 60.000 il vero rischio che corre De Luca non sono solamente fermo. Il vero rischio non è quello di penitenziacite, ma che questa gente qui possa facilmente girare nella versante dolcignano e aggirarsi dalla popolazione anche femminile gridando darla. Questo mi sembra che potrebbe essere, tra tutte le cose che hanno detto, l'unica cosa sostenibile della presenza di questi qua. Grazie amico mio, grazie. Ed è con noi, ragazzi, il filosofo della zanzara, Diego Fusaro. Buonasera, buonasera. Un caro saluto a tutti voi da Diego Fusaro, dalla Marca di Ancona. Buona serata a voi tutti, cari amici zanzarosi. Allora, io voglio capire una cosa. Burbanzoso Turbo Parenzo. Io voglio capire una cosa. Come fa il filosofo a scrivere così tanti libri? Adesso ne ha pubblicato un altro che si chiama filosofo. Caro Epicuro, perché non è filosofo. Cacciari è un filosofo. Turbo Parenzo, un filosofo. Il filosofo è l'amante del sapere, non è colui che sa. Quindi tutti gli uomini sono potenzialmente amanti del sapere, tranne il Turbo Parenzo, come già diceva Socrate anticamente. Allora, caro Epicuro, è il nuovo libro che parla di filosofia al tempo del Covid-19. Addirittura, non parlava del Covid. Epicuro non parlava del Covid in alcun modo. Epicuro, se fosse vivo, si rivolterebbe nella tomba l'idea di essere citato da lei. Lo ammetto, per via della sua Latebiosas. Viviamo nascostamente con il Covid-19, a maggior ragione. Lei si è iscritto però in questi giorni al partito dei no mask, diciamo la verità. Si è iscritto al partito di quelli che sono contrari all'uso della mascherina. Io indosso la mascherina quando è obbligatorio a norma di legge, quindi nei luoghi chiusi, nei negozi e quant'altro. Però fuori mai. Ma fuori non è obbligatorio, quindi sono pienamente nel rispetto della legge. Nelle Marche non è obbligatorio, nelle a Torino Marche. Sì, ad esempio, quindi io per ora, cari amici, non sto indossando la maschera, perché ve lo spiego, come anche ho sostenuto... Perché è già una maschera, perché già la tua faccia è una maschera, già quella amico, è una maschera da circo. Ama la maschera perché la maschera è il simbolo dello schiavo ideale, sicché lei non può che giovarsi di suddetto simbolo. Maschera, come ho cercato di spiegare nel mio libro, caro Epicuro, la maschera serve essenzialmente, ve lo dico subito, a essere il simbolo dello schiavo ideale. L'uomo è uomo nella misura in cui ha il logo. Fammi sentire, la ragione come dialogo. Con la maschera non si può parlare, quindi si perde il logo. Poi vi è una sorta di trasfigurazione del volto, come dice Levinas. Noi siamo il volto e ci riconosciamo nel volto, se ci priviamo del volto non siamo più esseri umani. Cioè, allora ci vogliono, chi è che ci vuole sottomettere, filosofo? Andiamo a chiarire subito, chi è che ci vuole sottomettere? È una teologia, come ha scritto il filosofo, se me lo consente il Turbo Parenzo, Giorgio Agamben. Siamo all'interno di una nuova teologia scientifica, che è una vera e propria religione, che ha il suo sacrificio. Non c'è più la cenere sul capo. Prima o poi ce la toglieremo, però. C'è la maschera che diventa il nuovo simbolo dello schiavo ideale, che riconosce la propria La usi quando vai in un luogo. Ma è molto più semplice tutte queste stronzate che hai detto in 5 minuti. Si usa la maschera quando vai in quando vai sull'autobus, quando ti metti la maschera. No, Agamben, no, Epicuro. Quando ripenso alla vai in un negozio, Platone, ti metti la. Ma quale caverna? Vai in un negozio, ti Platone, metti la maschera. Immagino non... tanti Turbo Parenzo replicanti perfetto. In catene che giubilano per le loro catene con ebete euforia. Ma non giubilo per nulla. Servile Letizia. Diciamo il libro settimo così, della, il libro Platone. Settimo della il libro settimo della Repubblica di Platone, che è sì. quello che parla della questione bravo, in oggetto, il libro settimo della Repubblica ci di posso Platone, dire che anche Parenzo stato alla mia condizione è una stronzata perché la mascherina così, si mette soltanto si quando vai ma mi adombro non quando tu dici che la maschera trasfigura non le cose non, non c'entra niente Agam non c'entra niente vai in un negozio chiuso ti metti la maschera non trasfigura un cazzo, hai la maschera, chiuso, sì, proteggi ma te no. e proteggi anche l'altra persona che è davanti a te, caro la adorata amico, commessa proteletaria, la proteggi. È un adepto della nuova teologia scientifica e soprattutto è teologia. Con la sua ebete euforia l'emblema vivente della servitù volontaria, come la chiamava la Boissy, cioè colui il quale aderisce cadavericamente a ogni ordine cadavericamente, che proviene sì. Ma non glielo puoi no. dire qualcosa anche tu sì, che la mascherina quando vai su un auto la caverna di Platone, la caverna lei rappresenta massimamente lo schiavo che ama le proprie quale catene. Schiavo? Sei schiavo, glielo puoi spiegare tu, glielo puoi spiegare tu a questo qui però voglio che chiedere... la maschera non trasfigura non proprio un beneamato nulla. Ma non mi inganno, mi fai incazzare meno, quando meno dici... Meno splendente la sua intelligenza, altrimenti sempre però voglio auge. Chiedere una cosa, che legame c'è tra Bill Gates e il diavolo, soggettivamente, caro Fusaro? Cioè hai fatto un collegamento tra Bill Gates e il diavolo? Adesso questo francamente non lo so, mi sembra un po' troppo tra Bill Gates e il 666 mi sembra allora, un po' troppo se noi vogliamo parlare per metafore come direbbe lo Hegel con la rappresentazione Vorstellung religiosa possiamo dire che il capitalismo è il nuovo inferno nel quale ci troviamo Beh, insomma, e ha i suoi cultori, i suoi diavoli, del resto c'è anche un famoso libro che parla dei diavoli della finanza, come no, non, certo. per caso. Sì. Non per caso è una metaforica l'ottimo efficace. Ma non citare l'ottimo Brera. Sicché nel nuovo inferno del turbocapitalismo no border, che diventa ora un capitalismo terapeutico e autoritario, perché c'è una svolta autoritaria. Addirittura, la svolta autoritaria. Era dal tempo delle leggi fascistissime che non c'era più il divieto di assembramento ma appunto quello per motivi sanitari però per certo, motivi che ma allora appunto. C'era il motivo delle cospirazioni bolsceviche e dunque è tutta una truffa motivo, sto coronavirus ovviamente. È tutta una truffa secondo lei questo. Filosofo dico che lo usano dice. La pandemia come via per produrre una involuzione autoritaria ma non in Italia a livello europeo è il capitalismo che sta entrando in una nuova fase autoritaria il capitalismo perché è il virus. Per ma evitare cosa che ci siano dei rivolgimenti dei popoli e delle classi lavoratrici. E il diavolo che c'entra con Bill Gates? Il diavolo, il 666. Il diavolo metaforicamente se vogliamo dir così, il nuovo capitalismo diabolico ha i suoi diavoli danteschi quasi e trova riferimento in tante e Bill Gates fa parte di questa Bill cerchia. Bill Gates è colui il quale ha ideato non da solo in vero il progetto di identità digitale ID 2020 e tra i vari programmi c'è l'idea di una identità digitale con tanto di vaccino e di tracciabilità permanente che sarà il simbolo della bestia. Voi sapete che nell'Apocalisse, si parla testualmente del marchio della bestia 666 nel quale che c'entra con Bill Gates? Cioè vogliono controllare le persone in questo modo? Io dice. Faccio una, uso questa metafora, una metafora del filosofo, allora voglio chiedere una cosa al filosofo. Lasciatemi dire una cosa perché diciamola, è evidente dal mio punto di vista almeno che questa pandemia è utilizzata per riplasmare i rapporti di forza in chiave autoritaria addirittura. Certamente il distanziamento sociale è la nuova norma di una società senza contatti ma serve a non contagiarsi in teoria serve a non contagiarsi ma tu grazie all'emergenza del coronavirus puoi sospendere le libertà e la costituzione finché c'è l'emergenza tutto sta nel far durare l'emergenza il più a lungo possibile il progetto è quello il progetto non è quello il progetto è che il capitalismo è una realtà adattiva ma secondo anche lei che cosa vorrebbe il socialismo cosa vorrebbe la proprietà di stato di tutto cosa vorrebbe internazionalista basato su nazioni sorelle con centralità delle classi lavoratrici. Ho capito, ma il capitalismo, dei ma medi contro i parassiti che oggi sono quelli che lucrano con la finanza. Cioè lei vorrebbe togliere la proprietà, che ne so, vorrebbe spogliare dei possedimenti Bill Gates o che ne so, i Rockefeller. Io ritengo che i punti cardinali della produzione ma... Soros, che cosa andrebbe fatto con Soros? Andrebbero tolti i denari a Soros, andrebbe messo in galera, andrebbe arrestato il signor Soros. Che andrebbe fatto con Soros? Con tutto il bene che ha fatto nel mondo. No, gli andrebbe semplicemente impedito di fare quello che ha fatto con i suoi finanziamenti e le cose. Cioè del bene. Filosofo, io concluderei in questo modo. C'è stato un aumento, caro filosofo della Zanzara, anche di pornografia, di uso di pornografia in questo periodo. Cioè, reclusi in casa abbiamo usato moltissima pornografia. Cioè, video, cose, eccetera. Un aumento, glielo devo dire, di casi di masturbazioni, smart working, eccetera, eccetera. Ora, questo è un problema, anche secondo lei, anche secondo il filosofo. Lei ha studiato queste cose qua. Che rapporto ha lei con la pornografia? Ha mai visto un film porno in vita sua, filosofo? No, guardi, io il mio tempo libero lo dedico a Platone, a Spinoza. Cioè, non ha mai visto un film porno in vita sua, mai? Ma no, non ce n'è bisogno di vedere. Un po' Pornhub dietro a queste cose. Cioè, Pornhub non l'ha mai visitato, cioè non ha mai, non sa che cos'è Pornhub. Ma non visito YouPorn, Pornhub. Filosofo, lei mi è giovane, non è tanto anziano, cioè lei non conosce Pornhub. Se vuole parliamo dei dialoghi di Platone, di quelli che ritengo mio, però esiste anche Pornhub, è una roba visitata dai giovani, cioè io non sono più tanto giovane, però a parte tutto. Però Pornhub è una cosa fondamentale nella società contemporanea, cioè il sesso virtuale, il sesso guardato. Diciamo che c'è del vero in quello che lei dice, perché la società elettronica, la contactless society, come la chiamerebbero gli anglofoni, è evidentemente una società delle relazioni digitali, e quindi non ci si stupisce se la scuola si digitalizza, il lavoro diventa telelavoro e se anche le relazioni sentimentali si virtualizzano in queste forme, che a mio giudizio rivelano una disumanizzazione dell'umano, se devo dirla assolutamente mia. Cioè, chi frequenta Pornhub secondo lei fa sesso e si fa una sega davanti a un video porno, secondo lei è una persona rovinata, diciamo, una rovinata da questo. Penso che perda molte esperienze reali che forse sarebbero anche più allettanti, eccomi, piuttosto di una sega davanti al computer. Chi fa tutte queste cose è il nostro amico Turbo Parenzo. Beh, no, veramente lui non pratica molto. Allora facciamo parte della stessa squadra, in realtà. Mi dica la verità: 37 anni. Però scusi, filosofo, a 37 anni, mi confessi una cosa, perché questa è dirimente. Lei una sega davanti a un'immagine? No, mai, non ha mai fatto nulla di tutto questo. Leggendolo Hegel, magari leggendolo Hegel. Quello può essere. Ciao, filosofo. Un caro saluto da Diego Fusaro. La Zanzara. Eccolo. Basta, hai fatto tanto male. Mettiamo pure la musica adesso. A tutta l'umanità. Vai, Bini. A tutta l'umanità. Questo è imbarazzante. Ma è un genio. Basta, hai fatto tanto male. Basta una parola. Ma chi ha fatto male? Hai fatto tanto male. Il Covid, no? Fa una canzone solo. Ma se fosse solo così facile, chiunque farebbe la musica, ma non è così. A tutta l'umanità! Genio, ragazzi. Non è una canzone questa qui. Covid-19. Vai via! Vai via! Bellissimo. Poesia pura. Covid-19. Un eroe. Ecco, i suoi testi sono articolati come il pensiero di Capezzone, uguale. Allora, mi sono dimenticato di chiedere una cosa a Fusaro, che abbiamo ancora in collegamento. Caro filosofo, scusami, ma ti attribuiscono, anzi hai scritto, dov'è? Fusaro, ci sei? Sì. Ti attribuiscono un tweet in cui dici: io non respiro. Io non respiro, che è, diciamo, quello che avrebbe detto, ha detto quel ragazzo nero con, no, con, che è stato messo sotto, poi è morto da quel poliziotto. Le parole di George Floyd siano anche il grido contro la mascherina obbligatoria, sempre e comunque. Ma è vero, ma è che hai scritto una cosa del genere, Pino? Beh, questo episodio è giusto, hai fatto bene a chiedermelo, è un episodio vergognoso. È una stronzata, hai detto solidali. Una stronzata. No, diciamo, no, che hai detto una stronzata, soprattutto. Con, diciamo soprattutto che hai detto vicenda, una follia, come al solito. Ma questo va bene, scusami, però hai scritto... hanno ucciso barbaramente un essere umano. Ma questo lo non sappiamo, ma che c'entra col tuo respiro della mascherina, sciacallo, che non sei altro che uno sciacallo? Che c'entra l'episodio della Che c'entra lo c'entra l'episodio americano però con la tua mascherina, i tuoi tormenti sulla mascherina, il, sciacallo che non essere. Sei altro che uno sciacallo, vergognati. Scusami, no, filosofo, ma la perché... vergogna è quella che dovrebbe provare lei ogni volta. Vergognati pur di avere morto di fama, pur di avere amico, due righe su Dario Spia o su altri siti. Ma non si adombri un cazzo, imbecille, morto di fama, morto di fama che sei, morto di fama. Ma tu ti ridicolizzi, paragonarti al ragazzo morto degli Stati Uniti. È ridicolo, amico mio. Ma perché hai fatto questo paragone? Perché hai fatto questo paragone tra la mascherina? Perché è una vicenda talmente di perché una stronzata. Vergognosa, E che c'entra con la mascherina del Covid? Animale somaro. Ma somaro lo dirà sua madre. Ma che c'entra la mascherina? Ignorante somaro, pur di avere spazio, pur di finire sui giornali, pagliaccio che non sei altro. Paragonare l'omicidio. Io non faccio questi paragoni del cazzo, imbecille. E quell'altro che lo chiama filosofo. Ma quale filosofo? Filosofo della minchia sei. Filosofo della minchia sei. Filosofo della minchia. Con tutto rispetto. Ma questo confuso di che cosa? No, paragona la mascherina alla morte di quello. Ma quale maleducazione? Devi dire che hai detto una stronzata. Allora voglio capire da Fusaro qual è il collegamento tra la mascherina non e c'è la, collegamento. E, fammi sentire perché l'ha scritto e dunque sicuramente qualche cosa. È una stronzata. Può dire che ha detto una stronzata, questo può fare. Se mi si lascia parlare, dimmi, vai, Fusaro, devo vai. Sentire solo dimmi, vai. I parlazzamenti di un somaro radiante che le siede accanto. Fallo parlare, vai Fusaro, vai, dimmi. Se non posso parlare, è inutile. Vai, dimmi, che Diego, dimmi. Allora, io ho detto che quella vicenda oscena avvenuta nel paese che pretende di esportare la democrazia e che poi uccide in maniera barbara un cittadino. Vabbè, questa è una persona, non è gli Stati Uniti, non è gli Stati Uniti che l'ha ammazzata. Le sue parole devono essere le nostre, di opposizione a ogni forma di violenza, di ingiustizia. Ma che c'entra la mascherina però? Porti tu? Che c'entra? Dobbiamo fare nostre ma in le generale parole di cosa? Volevi che si parlasse di te e come al solito hai trovato il modo più stupido. No, caro, lei volevi che si parlasse di te? No, però scusami, Fusaro, però non capisco una cosa. Non capisco una cosa. Aspetta, stai zitto un attimo, Davide, un attimo, voglio capire da parte. Guarda, io. Scusa, però. No, Diego, voglio capire. No, ma ti ha detto dallo stupido. Adesso questo è successo più volte. Non è questo il punto. Voglio capire se ti sei pentito perché mi sembra che tu l'hai cancellato questa roba qua, o no? Ma niente. Guarda, se tu vai sul mio canale. Ma non è cancellato, YouTube, va bene. Ma niente affatto. Se vai sul mio però canale. La lotta proprio... contro uno può anche opporsi all'uso della mascherina. Ma che c'entra col fatto. Collegarla alla frase non respiro di uno che è morto? È un po' diverso, o no? A mio giudizio, molto placidamente dico placidamente. Che quelle parole. Sì, placidamente. Vai, fammi placidamente fammi sentire. Placidamente. Lei raglia, si scompone e offende la sua intelligenza. Ma no, ogni perché volta. Dice io delle stupidaggini pur di finire. Il collegamento qual è? Filosofo, il collegamento qual è? Perché non ti metti una gonna e lo smalto per farti notare? Mettiti la gonna e lo smalto. Qual è il collegamento? Non ho ancora capito il collegamento. Fusaro, non ho ancora capito. Se mi lasciate parlare. Dimmi. Tappi un attimo la bocca, sì, così sì, non sentiamo vai, dimmi. Si diffonde nell'etere e vi dico placidamente. Mettiti le mutande in testa se allora, devo farlo notare. È una tale ingiustizia? Che deve essere il momento di riprendere quelle parole per farle nostre come lotta contro tutte le forme. Ho capito, di ma non c'entra niente la mascherina con la morte di una persona, oppure appunto. Può portare alla morte la mascherina. Che ne so, magari secondo te può portare alla morte la mascherina, c'entra nulla la mascherina, tu l'hai la scritto però contro l'ordine. Beh, scritto tu. Però non posso respirare. Ma se ti vuoi far notare, mettiti le mutande in testa, perché è più utile, è più divertente. Perché se ti metti le mutande in testa ti fai notare di più, piuttosto che speculare sulla morte di una persona negli Stati Uniti con i tuoi paragoni del cazzo. Mettiti le mutande quando va, mettiti le mutande in testa. Non c'è colloquio. Evidentemente no, questa sera non su questo. Offende la sua umanità. Ma cosa in raglia? Questo modo non mettiti, si può quale humanitas? Ma che umanità, allora, che dialogo c'è con uno che fa un paragone idiota? Parento difende, il turbo Parento difende sempre no, gli Stati Uniti, non c'entra niente. Ma cosa c'entra gli Stati Uniti? Non c'entra niente in questo caso. Del mondo e poi vabbè. Come no, quando in Russia capita un omicidio, ma non c'entra, ma qui non si sta parlando dell'omicidio, ma del paragone che hai fatto, vabbè. Ma ho qui capito, si sta parlando Diego, del paragone con la grazie, con confermi COVID. Tutto, confermi tutto. Grazie, ciao. Allora ragazzi, è con noi però, è il momento di passare ad altri argomenti, sennò ci rompiamo i coglioni. Una persona che si chiama Mary Rider, cioè Maria Giovanna Ferrante, cioè Maria Giovanna Ferrante in Mary Rider, laureata in lettere, ex giornalista, pornostar, titolare di Sexy Shop, chi più ne ha più ne metta, andate a vederla sui vari siti, è tanta roba. Mary Rider, buonasera amica mia, come stai? Buonasera carissimo, che piacere di sentirti. Beh, allora, devi sapere, caro David, che la signora Mary Rider, giornalista, ex giornalista all'Ansa, poi per scelta pornoattrice, eccetera, eccetera. Non diciamolo che è stata all'Ansa, va. Ma perché non lo diciamo? Non è stata all'Ansa, No, così perché? Per rispetto anche al direttore Contu e tutta a questa istituzione. Mica si vergogna all'Ansa, cara Mary Rider, no? Ma di essere, non di lo so. No, nel momento in cui ero una giornalista ho fatto correttamente la giornalista. Bravo, ho smesso e sto facendo altro. Sto scherzando. Beh, qualche trombatina te la facevi là all'Ansa, immagino, oppure eri asessuata all'epoca. Sul lavoro sono stata impeccabile. Ero benissimo. Giornalista. Benissimo. Allora, Mary Rider è un po' incazzata perché non sono passati i fondi regionali di aiuto ai Sexy Shop. Cioè qualcuno, credo anche per bigottismo, credo, no, signora Mary Rider, in particolare la Lega. Penso di sì, è stato un intervento voluto esplicitamente dalla Lega. Alla signora il capogruppo della Lega. Non hanno dato soldi ai Sexy Shop negli aiuti che danno alle regioni e alle imprese. Cioè la Lega si è opposta, non ho capito questa notizia. La Lega ha proposto un controemendamento per escludere i Sexy Shop, che lei è titolare di Sexy Shop, non saranno aiutati in Piemonte. Esclusi per colpa della Lega, lei dice. Sì, che tra l'altro vuole la legalizzazione della prostituzione, dunque diciamo c'è anche una piccola contraddizione, giusto signora Maria? Una grande contraddizione direi, perché se stiamo verso questo genere di apertura, allora per quale motivo osteggiare una cosa che è già legale ed ufficializzata come una prima? Questa come volta un'altra. La Lega non è un'impresa ha, come un'altra, sì, diciamo. Però per la verità questa volta bisogna dire che la Lega non è che sbaglia sempre. Ma a prescindere. Perché non bisogna questa aiutare la Lega i Sexy Shop? Ha fatto una cosa giusta, perché magari non è uno di quei settori, diciamo così, tutti, bisognerebbe aiutare tutti. Però ma se i soldi sono pochi, magari non è un settore strategico, cioè un fallo di gomma, magari uno lo compra lo stesso. E quindi in questo caso bisogna rendere merito. Mi pare abbiano fatto bene i signori della Lega. Per tre mesi i falli di gomma sono stati comprati soltanto online. Io come imprenditrice un danno l'ho avuto. Certo, ma io sono dalla parte tua. Avrei bisogno magari dell'aiuto che hanno dato a tutti quanti gli ma altri. Ma perché io un'impresa, perché un negozio, un bar non deve essere... Ho capito, ma se uno ci ha rimesso è perché devi essere punito e per non si sa quale ragione i soldi non darli a questa signora qua e a tutti i Sexy Shop del Piemonte. Adesso io sono contro gli emendamenti ad personam, ovviamente, però diciamo che ci sono tanti altri settori che hanno molta soldi più urgenza, ai falli di gomma, soldi a che ne so, alle palline. Qual è il prodotto più venduto? In questo periodo sono stati venduti tantissimo gli ovetti vibranti. Dove si mettono gli ovetti vibranti? Si mettono nella figa, anche nella figa, soprattutto nel culo. situazione. Sì, poi se si vogliono anche mettere da qualsiasi altra parte va bene. Sentite, uguale. Io vi chiedo scusa, a casa mia gli ovetti, a casa, io vi chiedo scusa se non partecipo alla conversazione, a casa mia gli unici ovetti che si conoscono sono quelli di Pasqua, che vengono regalati ai bambini. Beh, con dentro la sorpresa, e durante l'anno gli ovetti, allora, Kinder, scusami, che vengono ovetti, mangiati, ovetti, non vengono messi negli altri orifizi. Mi stai dicendo che gli ovetti vanno soprattutto nella figa, giusto? Tendenzialmente, sì, esatto. Tendenzialmente. Fermi tutti, adesso torniamo perché dobbiamo parlare di altre cose con la signora Mary Ryder. Ma fermi. Per carità. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Barisoni gay. Luciani, farsi ricostruire l'imene è inutile, è come prendere una macchina con 500.000 km e azzerare il contachilometri, come fanno in certe concessionarie. I pistoni e i cilindri sono comunque tutti sbragati. Un imene ricostruito è come una macchina che ha 700.000 km e che anche se tu gli azzeri il contachilometri è tutta sbragata lo stesso. Ne parleremo stasera. Allora, siamo in collegamento con Mary Ryder, pornoattrice e proprietaria di Sexy perché Shop Ryder? A Torino. Perché Mary Ryder? Ryder perché amante credo delle moto, no Mary? Cioè immagino. Sono un motociclista, sì. Motociclista. Allora io volevo chiederti una cosa. Bene. Ma è vero che adesso per questa situazione di crisi vuoi fare qualche variante sul tuo mestiere? Cioè vuoi iniziare, che ne so, a fare qualche marchetta, cose di questo tipo, un po' a prostituirti, sì o no? Mi arrivano queste voci. Beh, perché no, ci sto pensando, cioè perché no, parliamo, normale, ci, sto certo. Ci sto pensando. Evidente. Cioè stai pensando a prostituirti, ma come mai? Perché, per capire che cosa si prova fondamentalmente, in realtà lo fanno tantissime colleghe e cioè, non so quale, dovrei capire quale. Ma tuo marito è d'accordo? Capitano Eric è d'accordo, tuo marito? Sinceramente non gliel'ho chiesto perché è una scelta ha fatto mia. Bene se a dirlo in radio? Va, ha fatto bene se, a dirlo se, in radio? Se valuto che per me va bene, penso spero che potrebbe andare bene anche per lui. Allora ricordiamo, sì, a Parenzo, felice, che, ricordiamo a Parenzo che la signora Mary Ryder, a casa, Ryder, sì, abita, sì, insieme anche una situazione particolare, ricordiamolo signora Mary Ryder, lei abita insieme al suo marito che si chiama Capitano Eric, bene, che anch'esso fa il porno attore, diciamo. Attore porno. E nella stessa casa chi abita, ricordiamolo un po' a Parenzo perché è anche una famiglia allargata questa, qui lui dovrebbe essere una coppia di amici con figlio. Una coppia di amici con figlio con cui voi ogni tanto vi dilettate o vi dilettavate, non lo so, anche nel performance. Sì, è stata un po' una sbandata post-adolescenziale che comunque prosegue con una bellissima amicizia. Cioè, scopavate in quattro prima, o sbaglio? Scusate, cioè, non penso di aver capito correttamente, riassumo in 40 secondi. Ci troviamo di fronte all'ex giornalista dell'ANSA, sì, che ha legittimamente aperto un sexy shop evviva, e che adesso dice alla radio, sì, di volersi prostituire. Sì. Il marito è già un porno attore, sì, e fin qua io dico evviva. Perché fin qua io dico evviva, benissimo. Veniamo ad apprendere poi, ma lo dico molto rapidamente, che nella suddetta casa dove vive il pornoattore e la signora, sì, che da oggi si vuole prostituire, sì, un'altra coppia con, sì, addirittura figlio, sì, vivono tutti insieme, sì, e sovente vi furono degli scambi di coppia. Ho capito correttamente? Mi sembra in passato, però ci sono stati, sì, prima che ci fosse il bambino. Benissimo. E comunque all'interno, benissimo, di un contesto di club di scambisti. Comunque questa è la situazione. Avevo capito. Per carità. Not in my name. Senti, ma evviva, tu sei così, a favore della sanatoria dei migranti, così tanto per cara Mary Ryder? Sono molto a favore. Come mai? Molto propensa. Perché comunque ho sempre detto anche quelle che sono le mie preferenze interrazziali per gli scambi culturali. Cioè mi stai dicendo che sei a favore perché almeno ci sono più piselli neri in giro? Non ho capito, grazie. Esattamente, cioè sei a favore, capito, Parenzo? Controllati, autorizzati, che comunque possono effettuare i loro esami, quindi di cui si può avere consapevolezza, certezza dello stato di salute. Dunque ci vogliono, praticamente ci vogliono più cazzi neri in Italia, diciamo la verità, secondo te? Sì, scopriamo bene, scopriamo tanto, ma scopriamo comunque facendo i nostri controlli. Benissimo. Perché è sempre tutto in sicurezza. Benissimo, grazie, grazie cara Mary. Ciao, ciao, ciao, grazie. Grazie, ciao, ciao. Ciao. Parenza. Giulio da Bari, vai Giulio, amico Giulio. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Senti, Giuseppe, tu sei, come dire, fai il tuo mestiere, sì, e lo fai bene, no? Perché hai una grossa audience, eccetera. Vabbè, allora? Però, cazzo, tutti sti malati mentali, tutti tu li conosci. Quali sarebbero i malati mentali, scusa? E queste qua, queste puttanazze, queste cose qua. Puttanazze, adesso vuol dire puttanazze, vuol dire puttanazze. Puttanazze, dai, muove. Era una volta, cioè, mo li abbiamo nobilitati, attori porno. Beh, attori porno, ma tu che mestiere fai, scusa, o che facevi, scusa Giulio? Ma io sono pensionato, io ho lavorato 42 anni. Dove? In che settore hai lavorato? Nel 40... settore pubblico e privato. Capito, sei un sei stato dipendente pubblico, non è che chi fa la prostituta ha meno valore rispetto a qualcuno che fa l'impiegato statale, me, o l'impiegato comunale, non so cosa. Una prostituta è come un gabinetto pubblico. Chi ha bisogno va a fare il suo servizio, lascia le sue porcherie e se ma ne un va. Gabinetto, ma vergognati di quello che dici, un gabinetto. Non vergogno, abbiamo il numero, ma ti devi vergognare di quello quando che dici. Abbiamo il numero di questo per denunciarlo. Con le palestemie gli pagano le cure. Ma Giulio, ma a parte che stai... C'è il numero di questo qui, lo possiamo dare alla polizia postale? Ma perché devi dare alla possiamo darlo alla polizia? Segnaliamolo, fallo segnalare a qualcuno. No, non segnaliamolo. Ma non sento bene, Giulio, non sento bene. Non sento bene, Giulio, non so da dove chiami. Togli quel cazzo di viva voce, di auricolare. Questo va segnalato comunque, va segnalato. Ma viva voce, sì. E togli sto viva voce dalla minchia. Questo qui, assolutamente. Coglione, questo è un coglione totale, questo Giulio da Bari. È un poveretto. Chi è che sta parlando? Ma sei un imbecille. Sarà coglione che non sei altro. Ma sei un imbecille. Rimone a vento. Ma sei un imbecille. Vai segnalato. No, siete imbecilli voi. Vabbè, tu sei furbo, vuoi fare... Allora, a conclusione di una meravigliosa settimana, di una stupenda settimana, prima della volata finale verso che la conclusione, di tasso, mamma mia, lo so, prima della conclusione di questa stagione, di questa volata finale, non poteva che esserci Paola Saulino. Applausi. Eccola qui. Cioè, non bastava l'ex giornalista che ora vuole fare la prostituta. No, non bastava. No, ma meno male, ma facciamoci due risate, che quell'intervento di prima era veramente pesantissimo. Mamma mia, capito? Contro le prostitute, contro il sesso, contro la libertà, dai, su. Allora. Io direi innanzitutto che bisogna rispettare tutti a prescindere, perché nessuno brava è migliore di un altro. Questo è un grande principio, un grande principio. Dietro le prostitute ci sono cuori, bambini, famiglie e vita reale. Allora, io voglio chiedere subito a Paola, innanzitutto, quando, quando ha detto quella frase lì, che adesso la corte ci rimanderà in onda, cioè, c'è grande voglia di cazzo, se si riferiva a se stesso oppure no, no? Mamma se si riferiva mia, a se stesso. Che voglia di cazzo, mamma mia. Ecco, noi la utilizziamo nei nostri mamma mia, io dico solo mamma mia, perché è una cosa che vuol dire, hai voglia di cazzo oppure è una cosa che hai detto così? Cioè, no, ho sempre voglia di cazzo, anche se il sesso qualche volta non è il mio primo pensiero, ovviamente, perché la mia giornata è fatta di tante cose, anche di lavoro, di volontà di fare business, anche di quindi lavoro, non sempre tanto il sesso è tra i miei primi pensieri, però a volte quando c'è voglia di cazzo è giusto esprimerlo, colmarla. Sì. Colmarla, dici tu, colmarla. Ma dirlo? Però tu come ma perché fai? Bisogna dirlo così? Come fai? Ma perché? Cioè, sei lontana da, o sei diventata singola oppure, cioè, non ho capito la tua situazione ancora qual è. Sono affaracci miei. Questo dai è vero, questo è vero. Però al grande pubblico che ti segue va detto: Paolina Saulino è single oppure è fidanzata? Allora, ho una simpatia che si ripropone da qualche mese, che è cominciata prima della quarantena con distacco forzato e rivisitazioni delle reciproche pisticciacame e pistillane, sì, sì. Però è restata ad ora è ancora relegata a una forte simpatia. Ma con la fine del lockdown avete rivisitato? Abbiamo consumato, sì, avete c'è consumato. Stato, sì, beh, sì, una notizia clamorosa proprio. Ma con soddisfazione sui più importanti quotidiani italiani. Ma con soddisfazione? Con soddisfazione reciproca oppure no? Sì, con soddisfazione reciproca, ma talvolta a me quando piace davvero davvero un ragazzo sono anche molto basic nel sesso, eh. Ah, basic, cioè non fai culame, non fai, non fai culame di solito quando... No, no, ma anche culame, però molto basic, molta gente pratica comunque, che ne so, il sado masochismo, pratiche. No, tu invece cose normali, normalità. Un culame ci può stare, però sono molto attratta dall'estetica, mi piacciono i bei ragazzi, a volte proprio mi piace soccombere a gambe aperte con un bel ragazzo sopra, lo trovo molto soddisfacente. Cioè il classico, dici? Molto classica. Ma questo è importante saperlo, vedi, una persona guarda, magari... Non mi stupisce di non aver letto questa notizia sui più importanti quotidiani nazionali. Comunque. Ti sbagli invece, perché non è così. Ti sbagli. Però Parenzo, cioè, io sono felice che tu mi vai contro, perché ogni grandezza ma va io non vado contro. Ma non vado contro niente, io sono allucinato da quello che lei dice. Allora, io volevo affrontare, in questi, cinque minuti, qualcosa in più che ci rimane, un tema fondamentale. Il tema fondamentale, che è quello del depilame, sia figamico, che culamico. Innanzitutto, subito una piccola domandina. Lei ama la presenza del pelo nella sua vagina, nel mio bucchiacame? Nel suo bucchiacame, sì. Io sono contro i peli. Ah, io sono che assolutamente che contro i peli. Che delusione. Quindi credo innanzitutto che se a meno che non hai un compagno fisso che a cui sai che piace il pelame, sì, allora sì, va bene, ma c'è una corrispondenza di amorosi sensi pelamici e sì, andrà sì bene, ma lì dove sei single o comunque vuoi fare uno scopatame occasionale, sì, secondo me è necessario farsi trovare molto molto puliti. Molto quindi puliti, dunque rasatura quasi total, diciamo, no? Rasatura. Sì, io ho fatto il laser, pertanto sono molto liscia, per quanto non l'abbia fatta integrale però è liscia. Lei la signora Saulino è liscia, possiamo proclamarlo, sì, urbi a torbi, sono liscia, sono sì liscia. Sono liscia, ecco, sono il depilame, è culamico, sì, per utilizzare un suo termine, perché è così, sì, importante, dice lei, il depilame culamico, mi spieghi un attimo. Il depilame culamico, innanzitutto, io la mattina mi alzo, mi sveglio, mi apro il buco del culo, sì, e me lo chiaro guardo allo specchio. Ma scusi, sì, ma io aspetti, di cosa state parlando? Scusate, fammi capire. La teoria del pallido ano, cioè? Io sono per anche attraverso metodi molto casalinghi, e sì, sono infatti un alchimista, mi schiarisco la parte anogenitale. Quindi chi se ne frega? Aspetta, fammi sentire. La teoria del pallido ano. Dunque, la mattina appena mi sveglio, sì, faccio la pipì, quello che devo fare, in bagno c'ho proprio uno specchietto a ingrandimento, sì, e mi inquadro il culame affinché io possa essere felice del raggiungimento del mio pallido ano, che ogni giorno Madonna, è sempre una che più si inquadra roseo. Il sedere, aspetta, però aspetta, dai, aspetta, ragazzi, però scusate. Aumenta parecchio la mia autostima. Sì, sì, sì, sì. Cioè, sì, come sì si fa a sbiancare, però, cioè, una si guarda il sedere ed è contenta. Sì. Ma ragazzi, sì, ma sì, che mondo è? Comincio ma che gente così è? Chi chiami? Chi è questa che si guarda il sedere giorno, la mattina? Sì, fammi sentire. È un giorno che comincia con una botta veramente di autostima. Io sto perché è normale guardarsi il sedere fammi la sentire, mattina. Fammi sentire nel dettaglio, allora, che è importante. Io sto schiarendo la parte anogenitale, che a volte si scurisce anche attraverso, sì, il laser o le, sì, depilazioni, sia con cerettame che con il lamettale. Sì, chiaro. Praticamente io ho cominciato ad utilizzare bicarbonato e limone. Bicarbonato, quindi limone, o fare degli impacchetti di limone oppure mettere delle gocce di limone nel bicarbonato 20 minuti, ma quando lo fa? Almeno per 20 giorni. Ma chi se c'è non tutto 30 sto tempo? Ma è pazza, eh! Aspetta, questa fonda. Ma poi, che roba poi, è? Poi ho cominciato ad utilizzare la pasta dentifricica, quella pure, la bianca, sì, sì, normalissima. Ma questa è proprio matta. E quella pure ha un leggero effetto dermoabrasivo molto superficiale. Ma tutto questo a che scopo? Questo è interessante. Tutto questo per sbiancare il buco culamico. Cioè, a lei piace, signora Saulino, sbiancare il culo culamico, cioè non avere proprio nessuna traccia di scuro intorno al buco culamico. No, io sono contro l'iperpigmentazione sia pallamica che culamica. Ho capito perfettamente. Ma sono cosa per il pallido ano e le pallide palle. Ma questo serve anche nella pratica sessuale, poi ha vantaggi ed avvantaggi da questo punto di vista? Ha molti vantaggi, perché dopo si è molto più sicuri di se stessi, è un self-confidence che si ottiene, sì, perché io ho parlato anche dello stuta candelame culamico, sì, cioè stare sopra l'uomo ma da parte del culo, sì, quindi con il culame rivolto alla faccia dell'uomo. Molto bene. E questo ti dà della sicurezza che ti lascia andare molto di più sessualmente. È molto interessante. Dunque, le donne devono. Non so se ho capito per bene. Stiamo parlando parlando con una signora che sostiene che la mattina si guarda il culo e poi si mette il dentifricio. Se secondo anche voi tutta questa cose. Porcheria, anche tra le altre cose che è bicarbonato, limone, cioè tratta il culo come fa. Ma io dico, ma certo cosa? Lei è una schifezza, è una porcheria quello che ha raccontato. Paolina. Ma non so che cos'è lei, ma una che si guarda il culo la mattina anziché andare a lavorare è una pazza. Beh, per quello me. È il lavoro suo. Quello è il mio lavoro. Mamma mia. Io la adoro. Io la adoro sempre di più. E io penso che Paolina Saulino, esatto. Paolina Saulino è una delle protagoniste fondamentali della cultura contemporanea, ragazzi. Cioè molto questo. Bene, certo. L'arte va anche diffusa e compresa. Non è responsabilità mia la mediocrità altrui. Brava, io l'abbraccio fortissimo. E ci sentiamo molto presto. No, a sono presto, un bacione. Ciao, vi amo. Italiani! Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottercene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà! Poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter